Dal 2002 il Forum delle Fattorie Agricole ha creato 50 aziende, cooperative, associazioni sociali che nel tempo hanno coinvolto centinaia di persone altrimenti destinate a finire in strutture. Italia in controluce. Lasciamo Roma con le sue fattorie sociali e avendo sempre in mente l'idea che la tradizione agricola ci può dare spunti per la nostra vita futura, saliamo a Milano. In una città dove il verde c'è ma non si vede, frammentato in giardini privati o microparchi che a malapena bastano per i cani o per i podisti, arriva un progetto per certi aspetti unico: recuperare una vecchia cascina di 3.500 metri quadrati in centro città tra edifici e giardino e farne, come dicono i promotori, un laboratorio a cielo aperto. Ce ne parla Maria Luisa Pezzali. Cercate di non mischiare scartocci e panocchi, Così si scartocciava il grano turco in cascina in una delle scene più famose dell'Albero degli Zoccoli di Ermanno Olmi, vero e proprio rito collettivo della vita in cascina, fatta di una socialità allargata che, in quanto ad accoglienza e partecipazione, potrebbe insegnare molto alla convivenza nelle nostre città. Perché allora non recuperarne lo spirito, partendo proprio dallo stesso luogo fisico, la cascina? Questo l'obiettivo dei progetti di valorizzazione delle cascine urbane, le cascine dismesse che si trovano all'interno del territorio cittadino. A Milano ce ne sono 58. Per l'Expo si vorrebbe recuperarne un buon numero. La più centrale di tutte, a pochi passi da Porta Romana, è la settecentesca Cascina Cuccagna, che ora sta per rinascere grazie ad un progetto dal basso, voluto cioè dai cittadini. Una sessantina di stanze e 1500 metri quadrati di giardino a 10 minuti a piedi da Piazza Duomo, che diventeranno uno spazio pubblico di riuso, luogo di incontro e aggregazione con un ostello, una trattoria, un mercato a filiera corta, serre, orti didattici, un auditorium e un'agenzia per il turismo agricolo. Un laboratorio culturale e sociale a cielo aperto. Uno spazio per i cittadini, ci dice Beniamino Saibene di Esterni, una delle 7 associazioni che fanno parte del consorzio Cantiere Cuccagna. La cascina è stata pochissimo utilizzata come spazio pubblico, era occupata da chi ci abitava, da una famosissima trattoria dove si ritrovava un po' la mala milanese dagli anni 30 fino agli anni 60, direi. Quello che ci hanno chiesto così maggiormente i vicini di casa è uno spazio aperto, uno spazio verde. Milano non è una scoperta nostra, ma mancano spazi verdi, piccoli o grandi che siano. Noi apriamo un giardino pubblico in qualche modo di 2000 metri quadrati con fiori, alberi, appunto orti e serre. Questa è l'esigenza primaria, credo, di qualsiasi milanese, bambino o anziano che sia, è uno spazio verde aperto dove poter fare un picnic, mangiare, giocare, piuttosto che anche riposarsi. Vorremmo che la cascina Cuccagna fosse in qualche modo un simbolo di questo movimento all'inverso. La campagna riscopre, riconquista la città. Quello che viene effettuato è un restauro conservativo completamente ecosostenibile, ci spiega il restauratore Carlo Susellini. È un edificio, a me piace chiamarlo di architettura diffusa, non è un monumento, però insomma anche lui ha una sua storia da tramandare, i muri parlano e quindi insomma cerchiamo di conservare tutto quello che è conservabile e soprattutto di mantenere un aspetto antico della cascina, insomma il suo aspetto finale sarà comunque un aspetto antico. Per terminare i lavori mancano 1.300.000 euro degli oltre 3 totali. Ecco perché Progetto Cuccagna invita i cittadini a diventare contadini urbani. Come viene portato avanti a livello finanziario un progetto del genere? Alessandro Rotiglio. I cittadini possono sostenere in maniera diffusa, diciamo, il progetto sottoscrivendo queste donazioni, conseguendo il titolo di contadino urbano, cioè di persona che partecipa a un progetto culturale legato al mondo agricolo e dell'ambiente. La parte più consistente dei finanziamenti ci vengono soprattutto da fondazioni come Fondazione Cariplo, Fondazione Banca del Monte Lombardia, e una parte di questi finanziamenti vengono da sponsor tecnici. Anzi, lanciamo un appello: fondazioni, enti pubblici, grandi aziende, ma anche piccole, se volete sostenere il progetto. Cascina Cuccagna è un'esperienza unica in Italia. La speranza dei promotori è che sia la prima di una lunga serie. Avamposto e ponte di superamento dei confini mentali e fisici tra città e campagna, ci dice Sergio Bonriposi, presidente del consiglio direttivo del consorzio. Le tre cose fondamentali sono recuperare un'antica cascina, quindi un patrimonio, e farne un luogo di socialità e fare di questa cascina, che è una vestigia del vecchio rapporto che c'era tra città e campagna, rimasto miracolosamente inserito qui tra i palazzoni, fare di questa un elemento anche culturalmente di ricongiungimento tra città e campagna. Minuti, è tutto per questa edizione di Italia in Controluce, un programma, vi ricordo, con il coordinamento di Daniele Biacchessi, oggi in regia Carmelo Lauricella. Vi ricordo i nostri indirizzi per scriverci: controluce@radio24.it, scriveteci le vostre storie oppure le vostre segnalazioni anche su Facebook Radio 24 Italia in Controluce. È tutto, buona giornata da Alessio Maurizi.